Italia in controluce. Buon pomeriggio, Daniele Biacchesi, conduzione di Italia in controluce per quest'oggi 16 febbraio. La cronaca, i problemi, le eccellenze italiane, secondo Radio 24. Il 13 maggio 1978 il Parlamento italiano emanava la legge 180, nota come legge Basaglia, dal nome dello psichiatra che sul finire degli anni 60 e poi durante tutti gli anni 70, prima nel manicomio di Gorizia, poi in quello di Trieste, attuò lo scardinamento dei cancelli della psichiatria. Due anni dopo, il 29 agosto 1980, moriva Franco Basaglia. A 30 anni dalla sua scomparsa, la legge 180 è ancora attuale? Da Trieste, il reportage di Andrea Saule. C'era una volta la città dei matti non è soltanto il titolo della fortunata fiction di Marco Turco che a sorpresa la scorsa settimana ha tenuto davanti alla TV oltre 6 milioni di spettatori, ma è un'affermazione che si avvicina alla realtà. Trieste nel Novecento è stata davvero uno dei luoghi dove le persone con malattie mentali erano di casa, tanto che in dialetto per dire tizio si dice appunto matto, come fossero sinonimi. Questo è il classico esempio. Non si calma neppure con l'elettroshock. Poi venne uno psichiatra veneziano e tutto cambiò. Grazie a Franco Basaglia, l'ex ospedale psichiatrico triestino divenne il modello di riferimento in Italia e non senza difficoltà. Basaglia riuscì nell'impresa di trasformare agli occhi dell'opinione pubblica i matti in malati da curare. Hai detto che dobbiamo parlare con i degenti. A che tipo di approccio terapeutico hai pensato? A nessuno. Questa è una tua preoccupazione, una tua necessità. Per il momento la malattia dobbiamo metterla tra parentesi. Questo qui è un lager. Finché c'è il lager, nessuna terapia è possibile. Ma per applicare la legge che porta il suo nome, la 180 del 1978, ci vollero decenni. Ora, a 30 anni dalla morte del professore, la situazione è radicalmente cambiata, tanto che a Trieste e in Italia in generale, le persone affette da disturbi psichici intraprendono un percorso grazie al quale è possibile guarire, come racconta Silva Bon, docente di storia contemporanea, affetta da una psicosi sul fronte psicoaffettivo, giudicata severa. Il rivolgermi ai servizi di salute mentale di Trieste mi ha veramente cambiato la vita, nel senso che mi ha dato tutta una serie di opportunità, di esperienze che mi hanno fatto crescere in realtà, che mi hanno aiutato moltissimo. La legge 180 però è stata applicata in modo diverso in ciascuna delle regioni e purtroppo il virtuosismo di Trieste non è comune a tutto il resto d'Italia, come spiega Franco Rotelli, amico, collega e successore di Franco Basaglia. La lettura di quello che accade in giro per l'Italia è che non è tanto che manchino le risorse, che queste risorse sono spese molto male. Sud Italia investe molti soldi della salute mentale in sua design istituti di riabilitazione privati che costano moltissimo, non riabilitano nessuno. Altrettanto in alcune zone del nord ci sono tantissimi psichiatri, tantissimi medici, poi non ci sono però gli spazi di accoglienza, non ci sono i centri di salute mentale aperti 24 ore su 24, i quattrini ci sono, ci sarebbero, occorre però ovviamente investirli sulle strutture giuste e non disperderle in strutture obsolete o assolutamente nocive. Le implicazioni culturali però non si fermano qui. Un altro dei problemi del post Basaglia è la scarsa memoria che ha l'Italia della rivoluzione dello psichiatra veneziano. Canzoni e film aiutano, ma il rischio che si pensi che con la chiusura dei manicomi i problemi delle persone siano tutti risolti, quando invece ancora oggi alcuni comuni schedano i pazienti per verificarne una presunta pericolosità sociale. Peppe Dell'Acqua, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, anche lui tra gli eredi di Basaglia. La gente in Italia è talmente convinta che il problema era già risolto, che si era già dimenticato il manicomio e la condizione delle persone con disturbo mentale che non è felice. Il problema però è di più ampio respiro e non riguarda soltanto i matti e i manicomi. Fabrizio Giffuni, che nella fiction C'era una volta la città dei matti, ha interpretato proprio Basaglia, vorrebbe che gli insegnamenti di colui che aprì le gabbie e liberò migliaia di italiani fossero utilizzati anche in altri campi. L'attualità è nel pensiero e nelle idee che sostengono tutto il lavoro che hanno fatto Franco e i suoi collaboratori, che è un pensiero che va molto oltre i confini della medicina e della psichiatria. Sono realtà che ogni giorno ci troviamo davanti ai nostri occhi sotto altre forme, no? Prendono magari la forma di ospizi per anziani o di centri di accoglienza per clandestini. Cioè Basaglia ci ha insegnato che ogni volta che si alza un muro, dietro a questo muro giorno dopo giorno si partoriscono delle mostruosità. Italia in controluce. Ci sono voluti anni di discussioni, divisioni politiche, costi alti, ma finalmente Firenze alla sua rete tranviaria. Il reportage di Ubaldo Cianciulli. Firenze ha di nuovo la tranvia. La linea 1 dalla stazione di Santa Maria Novella fino a Scandicci è stata inaugurata, ma senza lustrine e fuochi d'artificio, senza troppo clamore. Secondo il sindaco Matteo Renzi c'è poco da festeggiare per la durata epocale dei lavori. Sarà una cosa molto tranquilla, molto sobria. È bello che la tranvia parte, è un'occasione bella per la città, però sappiamo anche che i lavori, per come sono stati fatti, devono essere un modello per non rifarli così, perché troppi sono stati gli errori, troppo il tempo perduto. In effetti il primo progetto della tranvia risale al 1993. I lavori sono iniziati nel 2004 e terminati lo scorso dicembre, con 2 anni e mezzo di ritardi. Ma per conoscere tutti i segreti della tranvia abbiamo parlato con l'ingegnere Vincenzo Tartaglia della Direzione Mobilità del Comune di Firenze. Innanzitutto, quanto è costata la linea 1 della tranvia? Un percorso di 7,5 km da coprire in 23 minuti. La linea 1 è costata circa 260 milioni di euro. Il costo invece previsto per le altre due linee, per la linea 2 e per la linea 3, di costruzione è di 380 milioni di euro circa. In parte sono finanziamenti privati, ma sono soprattutto soldi pubblici messi a disposizione dai comuni di Firenze e Scandicci, dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Toscana. In pratica la linea 1 è costata 35 milioni di euro al chilometro e i lavori hanno viaggiato a una velocità di meno di 1,5 km l'anno. Come funzionerà la tranvia? Sentiamo ancora l'ingegner Tartaglia. Beh, si tratta sicuramente di un servizio innovativo per il trasporto pubblico nella città di Firenze, sia per una questione di frequenza, perché avremo a regime nell'ora di punta una frequenza di 4 minuti tra un convoglio e l'altro, sia soprattutto per regolarità e puntualità del servizio. La prima settimana è stata decisa la gratuità del servizio. Dalla seconda settimana il servizio sarà integrato dal punto di vista della tariffa e della bigliettazione col servizio degli autobus nell'area metropolitana, per cui in sostanza i biglietti e gli abbonamenti che oggi i cittadini possono utilizzare sulla rete degli autobus potranno essere utilizzati anche sul tram senza ulteriori costi. Durante il primo mese di esercizio i tram Sirio viaggeranno dalle 6.30 alle 21.30, le corse avranno una frequenza di 8 minuti, in seguito il servizio sarà garantito dalle 5 alle 24, ma la frequenza sarà meno di 4 minuti solo nelle fasce di punta e fino a 12 minuti nelle ore notturne. Sirio, lungo 32 metri, potrà accogliere fino a 270 persone, quasi il triplo di un normale autobus. Ma la tranvia non ha trovato tutti d'accordo, anzi l'opposizione a Palazzo Vecchio ha innescato una dura battaglia e non sono mancate le critiche, come ci spiega la vice capogruppo del PDL Bianca Maria Giocoli. Visto che è stata inaugurata il giorno di San Valentino, viene in mente anche la strage di San Valentino di Al Capone, perché lungo la strada di questi lunghissimi anni, dal 2000 ad oggi, di cadaveri lungo la strada in senso figurato ce ne sono stati tanti, fra dagli alberi abbattuti ai cantieri infiniti, ai costi che sono notevolmente aumentati. Quindi mi sembra che sia significativa di un percorso che è stato gestito male e che non fa certo fare bella figura alla nostra città. E intanto sono in alto mare ancora le linee 2 e 3. Gli interventi sono stati finanziati, ma i lavori devono iniziare. Soprattutto mancano ancora i progetti per 2 tratte dei percorsi. Sentiamo ancora la consigliera comunale Giocoli. Ancora non abbiamo capito dal sindaco Renzi quali saranno i percorsi, perché ovviamente con la pedonalizzazione del Duomo c'è stato questo cambiamento, e come d'altro canto non abbiamo capito se il percorso, insomma, lungo via dello Statuto rimane oppure no. A questo punto la speranza è che la tranvia funzioni bene e regolarmente e che sia utilizzata, perché la vera scommessa è proprio questa. Vincerà Sirio la concorrenza di automobili e motorini? Italia in controluce. Torbella Monaca è una piccola città alla periferia di una metropoli. Se tu prendi un autobus dal centro di Roma ci puoi mettere un'eternità. È il quartiere della capitale dove si concentrano alcune delle contraddizioni più evidenti della sicurezza delle periferie urbane. Il racconto di Chiara Di Michele. Per qualsiasi denuncia e comunicazione rivolgersi al commissariato Nuovo Casilino. Così si legge sul citofono della caserma di polizia di Torbella Monaca all'interno del centro commerciale Le Torri. Torri. In quella caserma, infatti, sono rimasti solo gli alloggi di servizio per gli agenti e tra un po' non ci saranno più neanche quelli. Il Viminale ha deciso di sfrattare i poliziotti con le loro famiglie, chiudendo definitivamente la struttura. Ultimo avamposto di legalità in una zona ad elevata criminalità micro e macro. Si percepisce anche dai racconti di chi ci abita. Io ho paura. L'altra sera sono rientrata alle 8 dal lavoro, c'era mio marito e c'era un tossico che dormiva per le scale. La sicurezza è un problema, a volte chi dice sono questi di Torbella Monica, chi dice che sono gli extracomunitari, ti trovi pure sotto ai scandinati. Qui non si vive più proprio, veramente, non è polemica questa. Non si vive male, perché qui una borgata un po' che l'hanno abbandonata questa. Mancano i controlli di polizia, carabinieri. Ogni tanto si vedono, quando si vedono e quando non si vedono, passano quando non devono passare, quando servono non passano. Il Torbella Monica è uno schifo. I drogati, ubriaconi, di tutto c'è. C'ho più controlli, c'è che la politica, insomma, guardasse pure un po' a periferia. Un posto di polizia all'interno della caserma c'era, ma 8 anni fa venne chiuso e la metà della struttura è rimasta inutilizzata fino ad oggi. Peccato però che abbiamo continuato a pagarne le spese, circa 600.000 euro l'anno solo d'affitto. Per 8 anni il Ministero ha continuato a pagare il canone di locazione, addirittura le spese di manutenzione, quindi il riscaldamento, l'aria condizionata perché sono centralizzati, e addirittura quello che risulta a noi dalle informazioni che abbiamo acquisito, anche le imprese di pulizia. È quanto ci spiega il segretario provinciale del sindacato di polizia della CGIL, Mirko Carletti, che nella struttura ci è entrato in occasione di una convocazione presso la commissione di sicurezza dell'8° municipio. Era presente anche un delegato del sindaco Alemanno, dice. Hanno visto che si tratta di uno spazio in ottime condizioni. Ci sono circa 500-600 metri quadrati da destinare già da domani mattina per riaprire il posto di polizia. Quindi basterebbe prendere degli uomini e destinarli in quell'ufficio e potrebbe funzionare domani mattina. Quindi noi abbiamo chiesto e ottenuto anche il sostegno delle forze politiche locali, dei cittadini locali che stanno facendo una raccolta di firme. Noi chiediamo di fermare questa chiusura, aprire un tavolo di discussione col prefetto, col questore e trovare la soluzione migliore per garantire l'apertura del presidio in quel territorio, come richiesto dai cittadini. Oggi intanto per fare una denuncia alla polizia bisogna arrivare al commissariato Casilino, a circa 9 km da Torbella Monaca, unico punto di riferimento per tutto l'8° municipio, ossia per più di 200.000 abitanti distribuiti su un territorio di 113 km quadrati, dove il rapporto poliziotto-cittadino è di 1 a 2000 contro un rapporto di 1 a 200 di alcuni municipi centrali. Daniele Biacchessi ha condotto Italia in controluce l'edizione delle 13.30 dal lunedì al venerdì, vi ricordo, reportage, servizi, interviste, approfondimenti. Tutte le puntate sono disponibili su www.radio24.it e naturalmente in podcast. Infoline, il gruppo di Facebook, Radio 24 Italia in controluce, le mail a controluce@radio24.it. A risentirci domani, 17 febbraio alle 6.30.